9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 1 giugno e questa puntata è per così dire a due gambe. La prima gamba è ancora naturalmente solidamente incardinata sulle riflessioni, sulle conseguenze, sull'ampio eco di critiche polemiche che si sono scatenate nelle forze politiche, nel centro-destra, nel centro-sinistra, nel centro, dopo l'effetto devastante del secondo turno delle amministrative, e dall'altra parte c'è la seconda gamba, che è quella che a noi interessa di più prioritariamente, perché devo dire la verità, io erano mesi, forse più di un anno, che scrivevo e dicevo che mi sembrava che quello che poi è avvenuto fosse scontato, nel senso che mi sembrava che tutti i segnali che dava la società italiana alla maggioranza, al centrodestra, al governo erano inequivocabilmente volti a dire: guardate che così voi non andate più da nessuna parte, secondo noi la crescita è ferma, l'economia, ciò che interessa alla gente, le tasche, gli stipendi, i profitti per le imprese che non funzionano, le difficoltà crescenti per milioni di italiani il cui reddito disponibile è tornato ai livelli del 1999, ricordiamocelo, e questa non è una radio declinista, non è una radio che indulge al pessimismo, che rispetta le cifre. Abbiamo fatto molte puntate su questo, però questa seconda gamba è la seconda gamba sulla quale noi abbiamo chiesto ai nostri interlocutori di oggi di incardinare il più delle loro riflessioni. Perché? Perché come avete visto e come era prevedibile, dopo le prime ore in cui l'effetto della pesante sconfitta incassata dal centrodestra, dalla maggioranza e dal governo a Milano, a Napoli, a Novara, dove la Lega ha perso, a Cagliari, a Trieste, insomma un po' dovunque tranne rarissime eccezioni, questa sconfitta ha preso un segno che per una parte molto limitata, se posso dire, e non mi stupisce, riguarda l'inadeguatezza di Silvio Berlusconi a svolgere il suo compito, perché il problema è che, siccome questo centrodestra Silvio Berlusconi non lo mette mai in discussione, appare naturale ai più dei leader del centrodestra non toccare neanche adesso questo, che è il punto fondamentale a mio giudizio. E quindi in poche ore la reazione del centrodestra è stata quella di un governo che va avanti, che si dà tempi lunghi per la verifica, che aspetterà un mese, 20 giorni. E questo dipende dal fatto che il PDL, una sua capacità di riflessione interna in cui si dialetticamente delle diverse anime culturali all'interno del partito e politiche e diversi legittimi tentativi di impostare leadership alternative, nel PDL non ci sono, perché non fanno parte della caratteristica di questo partito, che è un movimento carismatico. I movimenti carismatici funzionano quando i leader fondatori sono al vertice o comunque forti nel loro rapporto con l'opinione pubblica. È chiaro che quando il gollismo fu senza De Gaulle, divenne un partito come gli altri. L'attuale UMP non è nient'altro che l'evoluzione nel tempo del gollismo, e nel tempo da Pompidou in avanti leadership, correnti eccetera si sono affrontate in un gioco esplicito ed implicito, a volte senza esclusione di colpi. Sarkozy per esempio per anni ha dovuto lottare contro la sciracchia del presidente dell'epoca, che non lo voleva all'Eliseo. Ecco, il PDL ha questo enorme problema di non riuscire mai a superare la questione carismatica. Ergo, le reazioni nel centrodestra, al di là del solito fiorire delle ipotesi di coordinatore unico o tre coordinatori, il predellino sì, il predellino no, Alfano verso l'investitura, l'ipotesi di Lupa alla giustizia, su ogni quotidiano trovate i retroscenisti in funzione permanente, se la Lega fa un passo indietro bisogna fare il partito del Sud, mi sembrano tutte delle varianti non troppo, devo dire, decisive, tranne il fatto che, come era inevitabile e prevedibile, ecco che il focus del scontento, del malcontento si sposta, come avviene anche qui da molti anni, ogni volta che il centrodestra mette il piede in fallo e rischia di cadere in una trappola decisiva, verso Giulio Tremonti e verso l'economia, perché la questione diventa Giulio Tremonti che non ci consente di spendere, Giulio Tremonti che non ha l'idea di che la politica si fa con il consenso, e Giulio Tremonti che ha promesso la riforma fiscale e non la mette mai in atto. Ergo le parole pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio: sulle tasse non decide Tremonti, Tremonti al massimo propone, ma dispongo sono io. Quindi ci vuole la riforma del fisco subito. Sapete che il Ministro dell'Economia ha aperto questi quattro tavoli e tutte le persone ragionevoli hanno capito che entro la fine di legislatura non c'era nessuna riforma, che Tremonti si riservava l'articolazione tecnica della sua proposta di riforma fiscale, dopo, ricordo, la delega fiscale che fece sperare noi tutti liberisti nel 94 e che da all'epoca non è più poi stata attuata. Ecco, da allora siamo arrivati a questa ennesima proposta di riforma che però tutti avevano capito Tremonti si riservava alla fine di questa legislatura di articolare in maniera tale che fosse la propria via elettorale e politica al futuro berlusconiano. Ecco perché centrodestra oggi gli chiede di tirare fuori l'asso. Ma non dimentichiamo che a luglio c'è una manovra da fare pluriennale per rimettere in sesto i conti secondo gli obiettivi programmatici triennali già confermati da questo governo e confermati da Tremonti contro i suoi stessi colleghi che gli dicono di tagliare troppo, e ci saranno nuovi tagli da fare, perché, confine delle mie riflessioni iniziali, ieri Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, nelle sue ultime considerazioni finali prima di diventare meritoriamente e con grande orgoglio, spero che tutti lo condividiate, per l'Italia presidente della BCE, ha, come il presidente di Confindustria Lema Marcegaglia la settimana prima, definito l'azzeramento del deficit al 2014, posto meritoriamente da Tremonti come obiettivo triennale di questo governo, come una sfida molto impegnativa da raggiungere, perché si tratta di tagliare un altro 5-6% di spesa reale primaria, quindi al netto degli interessi, rispetto ai livelli attuali. E il governatore ha detto: per fare questo però non si può procedere con i tagli lineari come fa Tremonti, invece bisogna rivedere aggregato per aggregato, voce per voce, della spesa del bilancio, perché solo così si può levare lo Stato dal troppo che fa inefficiente e che ostacola la crescita e che mette bastoni tra le ruote alle imprese come ai lavoratori, che hanno entrambi aliquote troppo elevate, per invece concentrarlo laddove lo Stato non c'è, ci dovrebbe essere, e non c'è, non è efficiente, per esempio sulla tutela del lavoro, del lavoratore, dalla perdita del posto, dalla perdita del reddito, non tanto del posto di lavoro, come funziona oggi la cassa integrazione. Le considerazioni finali del governatore sono l'altro punto di riferimento, perché io credo che il patrimonio accumulato di analisi sulle cose da fare oramai per lanciare la crescita sia molto comune, nel senso che se prendete la relazione di Draghi e quella della Marcegaglia della settimana prima, sono di tutto analoghe e coincidenti sulle riforme da introdurre, dalla flessibilità in uscita sul mercato del lavoro, tanto per fare un esempio, ad andare avanti su nuovi contratti, tanto per farne un altro, giustizia civile, che è il settore della giustizia che davvero impatta di più sulle imprese e sull'economia, per aggiungerne un quarto, le infrastrutture, mettendo mano ai colli di bottiglia che bisogna semplificare, al di là delle semplificazioni già contenute nell'ultimo decreto sviluppo. Insomma, in realtà il panorama delle cose da fare è abbastanza noto. Il problema è che fisco e revisione generale delle politiche di spesa, occorre un'atmosfera politica diversa, occorre un governo forte all'inizio di una sua legislatura più che alla fine della legislatura. E quindi la mia domanda che farò agli interlocutori è, mettendo insieme politica, voto, considerazioni di Draghi, è: credere o non credere che il governo possa in queste condizioni esercitare un cambio di marcia? E ci credete voi a casa? Chiamate il numero verde 800 24 00 24, ditemi anche quei messaggi sms al 349 238 6666 come la pensate. Bene, dopo la mia introduzione gli ospiti, e sentiamo loro come la pensano. Abbiamo con noi Alessia Mosca, che è deputato del PD e segretario della Commissione Lavoro alla Camera. Abbiamo più volte chiamata, il più delle volte, per la questione del donne, lavoro e mercato del lavoro, e torna con noi per il sul dopo voto. Grazie a lei, buongiorno onorevole Mosca. Buongiorno. Abbiamo poi con noi Raffaello Vignali, conoscete anche lui, il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e il meritorio estensore e pugnace combattente in Parlamento per il manifesto delle piccole e medie imprese, che è diventato un pezzo fondante di questa della politica del centrodestra, e però di origine parlamentare, un pezzo che è stato costruito dal basso, costruendo e viaggiando per le imprese del nord. Grazie e buongiorno onorevole Vignali. Buongiorno a tutti. Massimo Garavaglia, poi infine vicepresidente della Commissione Bilancio. Buongiorno Garavaglia. Buongiorno. Comincerei da lei, per così dire, come attore terzo rispetto a PD e a PDL. Allora, nel suo partito si scommette su questa capacità di cambiare marcia dopo la botta, e si condividono anche le polemiche che dal PDL e dal vertice del PDL, da Berlusconi, vengono su Tremonti, oppure no? Maroni ha sintetizzato il concetto con mi scusi, per chi non lo sapesse, Garavaglia appartiene alla Lega, ecco, me l'ho dimenticato di dire. Sì, ci mancherebbe. Maroni ha detto che abbiamo preso una bella sberla e adesso bisogna reagire, e è esattamente quello che vogliamo fare noi, ma reagire in maniera tosta, altrimenti sa, noi per Festeria Viva Chiare non è che ci stiamo ben contenti. Detto questo, l'agenda è giustamente, come diceva lei, legata proprio a doppio filo con l'economia. Noi qui abbiamo parallelamente due sfide che sembra impossibile portare a casa tutte e due, però bisogna farlo. Dobbiamo predisporre la manovra da 40 miliardi per il prossimo biennio e dobbiamo parallelamente dare una risposta al nostro mondo, ma io dico nostro mondo perché ci credo davvero, che è quello di chi produce davvero, di chi le tasse le paga di tasca sua, e un mondo che sta soffrendo e che ha bisogno di risposte reali e concrete. L'agenda, come diceva, è abbastanza nota, il punto è riuscire a vincere questo doppio corporativismo, perché si parlava di corporativismo, ma noi in Parlamento lo vediamo da tutte e due le parti, mentre c'è una sinistra sempre attenta al pubblico impiego, in particolare la scuola e non solo, dall'altra parte abbiamo anche da parte del PDL una certa ritrosia ad agire sulle professioni. Pensiamo alla mediazione civile, un'importante riforma che snellisce i processi civili, si è tentato sostanzialmente bipartisan di affossarla e per fortuna non è andata così. Adesso però dobbiamo fare tutti insieme uno scalpo. La nostra preoccupazione è capire se i vari responsabili ci stanno a fare questo scatto oppure se ci si impantana, e questo sarebbe un problema serio per tutto il paese. Allora, Mosca, lei si aspetta un cambio, una specie di espressione di energia dal centrodestra, dalla maggioranza e dal governo? Ma io mi aspetto che il governo si renda conto che non ci sono più le condizioni per poter andare avanti, questo è stato chiaro per quanto è avvenuto con le elezioni amministrative, è chiaro rispetto alla relazione che il governatore Draghi ieri ha fatto. Abbiamo già perso come paese 10 anni, non vorrei che per una irresponsabilità del governo ulteriore si vadano a perdere altri 2 anni, e il nostro paese non se lo può permettere. Io ho molta fiducia nel fatto che il paese possa riprendersi e possa fare uno scatto, perché tutte le qualità il nostro paese ha sempre dimostrato di poterle avere, ma ci vuole una classe dirigente, in modo particolare un governo che sia all'altezza e che sappia prendere delle decisioni. Io non ho nessuna fiducia che ci possa essere questo cambio di marcia proprio adesso, in un momento in cui c'è la massima debolezza di questo governo. Se non è stato in grado il governo di prendere queste decisioni quando aveva una maggioranza molto solida, quando aveva più di 100 deputati di maggioranza e quando c'erano tutte le condizioni per poter prendere delle decisioni molto forti, io non vedo come sia possibile adesso che siano fatte delle scelte in senso differente. Onorevole Vignali, La Stampa, il quotidiano La Stampa, è forse oggi uno dei organi di informazioni che ha, con i suoi retroscenisti un po' più scatenati degli altri, che ha forse delle tesi più taglienti di tutte nel tentare di andare a fondo in ciò che avviene all'interno del centrodestra dopo la scoppola elettorale. E La Stampa dice, in prima pagina, il titolo d'apertura è: Berlusconi resiste a Lega e Tremonti. In che cosa consisterebbe questa resistenza di Berlusconi a Lega e Tremonti? Nel fatto che il Carroccio avrebbe chiesto al Premier di annunciare che non si ricandiderà nel 2013, e pare di capire, anzi, cioè, questo è quello che scrivono i retroscenisti della Stampa, che questa è la stessa tesi di Tremonti per il quale addirittura le elezioni bisognava tenerle l'anno scorso. E questa però è una tesi che mi sento di confermare anch'io, perché chi conosce, parla, il ministro dell'economia, sa che considerava esaurita la corsa di Berlusconi già l'anno scorso, e quindi tutto il seguito delle polemiche Rubi, per così dire, giustizia, lo ha visto sempre scuotere il capo dicendo: non potremo che indebolirci ulteriormente per questo. La domanda che le faccio, dando per scontato, non le chiedo è vero o non è vero, perché giustamente lei mi dice, lo chieda ai colleghi della Stampa, ma non le sto chiedendo questo, le sto dicendo: poiché è abbastanza verosimile che le condizioni nelle quali la Lega può protrarre il suo sostegno a questo governo con tutta la diplomazia che Massimo Garavaglia ci ha esposto prima, ma sono condizioni in fortissima tensione, perché la Lega ha iniziato a perdere a casa sua, mentre fino a questa tornata elettorale guadagnava laddove il PDL perdeva. Questa volta da Novara a tutta la Brianza, dove si è presentata da sola, quando si è presentata da sola in Brianza si capisce che l'elettorato leghista inizia a ritirare la delega per dire: ma con questi che ci fate, cosa portiamo a casa? Allora, in queste condizioni, Vignali, per come lei conosce il nord, la Lombardia, il PDL attuale, le imprese, eccetera eccetera, è davvero meglio provare a mettere in scena sto ennesimo litigio, pezzi del PDL con Tremonti, che l'abbiamo già visto negli anni passati quando erano Casini, Fini, eccetera eccetera, o forse bisognerebbe che ci fossero le condizioni per andare al punto della questione e riarticolare le anime culturali e politiche in maniera che qualche leader del PDL dicesse: beh, il futuro a questo punto inizia a essere diverso, costruiamolo con diverse ipotesi, anche sulle politiche economiche, sulla famiglia, sul fisco, eccetera eccetera. So che, insomma, le chiedo di essere esplicito, però insomma proviamoci a ragionare. Ma allora, io per cultura penso che innanzitutto il problema serio sia quello dei programmi, cioè la questione vera è se oggi il PDL e la Lega sono in grado di riprendere in mano un lavoro programmatico serio e coraggioso e di farlo, perché io non credo che innanzitutto sia un problema di coordinatore unico o tre coordinatori del PDL, meglio unico secondo me, e se Alfano io sono contento, molto, però non è quello che risolve il problema. Il problema vero, che secondo me è quello da capire, è che c'è un distacco sempre più forte della gente dalla politica, cioè io quello che registro nel paese innanzitutto è un'ondata seria e preoccupante di antipolitica, in cui il caso più emblematico penso sia la questione delle elezioni del Comune di Napoli. Ci si rende conto che bisogna tornare a fare politica nel senso delle politiche che servono a questo paese, sia quelle di stabilità ma anche quelle di crescita, o se no non è che con alchimie politiche si ritorna alle elezioni, si cambia il leader, il nostro elettorato cambia atteggiamento. Io frequento soprattutto il mondo delle piccole imprese, delle piccolissime, vogliono vedere dei fatti, non vogliono, non gli interessa nulla dell'alchimia, se cambia il governo, c'è un rimpasto di governo, se cambia il coordinatore del PD, non gliene frega proprio nulla, questa è la questione. Bisogna riprendere in mano un serio programma di riforme, secondo me le condizioni ci sono, perché fino a prova contraria i governi stanno su finché ci sono i numeri in Parlamento, se in Parlamento i numeri ci sono si va avanti. È un'analisi, capisco, un po' abbastanza così, ragione, le condizioni ci sono, però insomma sentir dire da Berlusconi che Tremonti al massimo propone e non decide, se uno dovesse giudicare fino a questo momento come è davvero andata, non è esattamente così, o no? Sono d'accordo, non è esattamente così, dico anche che però il governo deve essere anche un organo collegiale, non può essere tutto nelle mani di una persona, e questo è fondamentale, perché comunque sia le sfide sono talmente complesse e sono tante le cose da fare che non si può pensare che ci sia un uomo solo al comando, e questo non funziona. E infatti questo riporta poi alla possibilità che nella dialettica tra PDL e Lega su cui rapporto Tremonti alla sua vera forza nei confronti di Berlusconi fu uno degli artefici del riavvicinamento della Lega al PDL. Il problema è che se le due sponde si allargano, Tremonti un po' come il colosso di Rodi rimane con un piede di qua e un piede di là, ma se le sue sponde poi di questo rapporto politico si allargano sempre di più, Tremonti è più forte, salta da una parte e il suo vero partito è il PDL e la Lega, oppure cade nel mezzo perché non è né l'uno né l'altro. Ecco, questo è stato l'eterno dilemma dietro il quale in realtà poi c'è stato il rafforzamento di Giulio Tremonti nei confronti di Berlusconi e l'indebolimento di Berlusconi, perché in questo ultimo anno e mezzo l'indebolimento dovuto alla vicenda della giustizia di Berlusconi anche sulla di politica economica ha ulteriormente messo non in discussione più il fatto che Giulio Tremonti è il regista unico e ha la rubinetteria in mano del dare e dell'avere e di tutti i canali e i flussi dei colleghi di governo, e si è visto regolarmente sia nelle manovre estive che poi nelle finanziarie che lo devono tradurre anno per anno un attrito crescente. Però a dire la verità questo attrito io credo che a centrodestra storicamente non abbia portato bene, perché tutte le volte che è riesploso la pancia del centrodestra che vuole risultati e ricorda le promesse non mantenute dice a noi di sapere che se Berlusconi, che adesso vuole mettere sotto schiaffo Tremonti, o Tremonti che comunque ha fatto bene a tenere il piede sul freno, interessa poco, perché quello che ci interessa ormai è che sono passati anni rispetto a quello che ci avete promesso e che non ci avete dato, e questo temo che sia il vero dato prioritario per chi è del centrodestra ed è politico eletto. C'è poi l'altro dato, quello che ci dice noi Alessia Mosca, cioè la richiesta delle opposizioni che dicono al voto, al voto, al voto, è una richiesta vera o, ed è vera, viene espressa, non sto mettendo in dubbio questo, ma oppure come ieri ci siamo a lungo interrogati nelle prime riflessioni del dopo voto e come ci hanno detto molti osservatori ieri, in realtà anche il centrosinistra non muore proprio dalla voglia perché alcuni conti interni, quindi dice preferisce che sia un altro anno di sfilacciamento auspicabile dal suo punto di vista del centrodestra a doversi consumare, e dice voto ma in realtà pensa non prima del 2012. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci, tornati in studio. La prima domanda è per Alessia Mosca ed è relativa a uno spunto. Dice oggi in un'intervista a Repubblica l'onorevole Franceschini: il berlusconismo non è finito, prepariamoci a colpi di coda. Possibile una nostra mozione di sfiducia? Possibile, serve l'unità delle opposizioni. Come dire, nel serve l'unità delle opposizioni c'è tutto ancora un pezzo di riflessione da fare, perché le cifre della vittoria Cagliari, Milano, Napoli rispetto alla strategia del PD, che era quella di tentare di verificare l'alleanza ipotizzabile con il centro, che in queste elezioni non è andato per niente bene, dice Franceschini, ci serve un po' di tempo per riarticolare e capire poi alla fine come glielo diamo il colpo che si presume finale per il PD a Berlusconi alle prossime politiche. Quindi tempo, non elezioni. Che dice onorevole Mosca? Ma qui non si tratta di fare dei tatticismi di che cosa conviene all'uno all'altro e stiamo dicendo delle cose invece vogliamo intenderne delle altre. Qui si tratta intanto di capire che il paese, se va avanti in questo modo, sprofonda, e se sprofonda va male per tutti. Quindi anche se lo guardiamo proprio dal nostro punto di vista come opposizioni al momento, noi non possiamo permetterci che il paese vada nelle condizioni che vada avanti nelle condizioni in cui sta andando avanti. Quindi è chiaro che noi ci troviamo in questo momento a dover fare in modo accelerato alcune riflessioni e a prendere alcune decisioni che pensavamo di dover prendere in tempi un po' più lunghi. Detto questo, non significa che non siamo nelle condizioni oggi di poter fare queste riflessioni in breve tempo, considerando che quello che ci interessa più di tutti è fare ciò che serve a riportare il nostro paese ad un livello di nei confronti con gli altri paesi europei. Io penso che tra le varie riflessioni che sono uscite in questi giorni del dopo voto ci siano state quelle di alcuni, tra cui Romano Prodi, tra cui una serie di personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese e il cui giudizio resta sempre molto prezioso, che è chiaro che serve un progetto per il paese, e su questo noi da tempo stiamo lavorando, non ci inventiamo oggi le nostre proposte, sono depositate in Parlamento, abbiamo una serie di progetti già pronti, dobbiamo affinare certo la proposta con la quale ci presentiamo per poter dare un cambio di rotta deciso al paese, però questo non significa che abbiamo bisogno di tempi biblici, ma soprattutto perché il paese non se lo può permettere. Garavaglia, alcuni pensano che la Lega, nelle more del completamento dell'approvazione dei decreti attuativi del federalismo, che è chiaramente prioritario per la Lega, l'ha sempre sostenuto e ci è sempre impegnata per ricordare al governo che i tempi dovevano essere incalzanti, e si è anche battuta attraverso il ministro Calderoli per un rapporto aperto dall'ANCI ai comuni, alle regioni e all'opposizione. Ma detto questo, alcuni sostengono che nelle more del completamento dell'attuazione dei decreti del federalismo, la Lega possa iniziare a considerare nel prossimo futuro, in questo anno insomma che ci aspetta prima delle elezioni politiche, per essere chiari, anche a vedere nell'altro campo che cosa può maturare per un sistema politico con una legge elettorale diversa, cioè a non mettere mai in discussione esplicitamente Berlusconi finché c'è Berlusconi, ma a ragionare concretamente anche su come sopravvivere senza Berlusconi con una propria identità su un territorio che dà segnali però di scontento evidenti oramai questa volta. È un discorso così peregrino immaginare nel futuro a breve delle relazioni politiche anche riservate del vertice leghista con gli altri interlocutori politici una via d'uscita e di sviluppo per i prossimi anni incassato al federalismo di questo tipo, oppure sono pure fantasie secondo lei? Ma le dirò che dal punto di vista proprio dell'operatività è prassi della Lega discutere con tutte le forze politiche per cercare di portare a casa il risultato migliore. È stato fatto per il federalismo fiscale, secondo me andrà fatto a maggior ragione proprio sul fronte della manovra da 40 miliardi che ci aspetta da qui a breve. E perché no anche sulla riforma fiscale. Sono temi talmente importanti che non possiamo nasconderci dietro un dito, devono essere affrontati da tutte le parti davvero che ci tengono a mettere insieme i cocci di questo paese, anche perché la nostra preoccupazione quando vediamo crescere forze tipo quella di Vendola, che poi sono quelle che alzano l'IRPEF per tappare i buchi della sanità e quindi fanno l'esatto opposto di quello che dice di fare Draghi, oppure si battono contro la TAV, contro il rigassificatore di Brindisi o contro la centrale di Porto Tolle. Ecco, è l'esatto opposto di quello che serve. Quindi più che cosa vorrei fare la Lega, io penso che andiamo incontro a un periodo in cui tutte le forze responsabili dovranno ragionare insieme su grandi temi, inevitabilmente. Ora, prima di entrare un pochino più nel merito sull'applicabilità di quello che è stato chiamato da alcuni, per esempio da Luigi La Spina, un programma di governo in 8 punti, quello illustrato ieri da Mario Draghi nelle sue ultime considerazioni finali, un paio di telefonate dagli ascoltatori. Cominciamo con Sandro che ci chiama da Padova. Prego Sandro. Sì, buongiorno. Pronto? Eccoci. Buongiorno Danino, sono Sandro Volpato da Padova. Dica. Sentivo parlare che la gente si sta allontanando dalla politica, credo di non sbagliare che sia stato detto questo. Io credo invece che stia succedendo l'esatto contrario. Negli ultimi 10 anni, da 8 anni governa la maggioranza attuale e con maggioranze che non si sono credo mai visti nella storia della Repubblica Italiana. Adesso ho giusto sentito in questo momento che i temi devono essere affrontati. Adesso, dopo 8 anni, state dicendo questi, signori della Lega, ma mi pare che siete un po' in ritardo, no? Pensate che la gente è distratta? Riferendomi al nucleare e ai prossimi referendum, perché non volete sottoporvi al giudizio della gente? Sono tutte cose che la gente credo stiano vedendo e la Lega penso stia perdendo per questo, come sta perdendo tutto il governo in questo momento. E non diamo la colpa, secondo me, alla crisi economica. La crisi economica ce l'hanno tutti, solo che qui si sta facendo del giudizio popolare un qualcosa che io personalmente ho 49 anni, ma credo di non aver mai visto dal dopoguerra ad oggi. Tutto qua. Grazie Sandro che dice gli italiani ascoltano, ragionano, si esprimono e non è vero che stanno allontanando, anzi si stanno un po' riprendendo da un punto, da una lunga fase in cui le ampie maggioranze come andato a centrodestra non li hanno soddisfatti, non gli hanno dato quello che avevano promesso. Paolo che chiama dalla provincia di Brescia, prego Paolo. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, io volevo fare una annotazione, condivido pienamente quello che ha detto il governatore della Banca d'Italia Draghi e sono molto contento che diventerà presidente della Banca Centrale Europea, perché pur avendo un paese come il nostro l'Italia riusciamo a produrre ancora delle persone molto valide, l'ennesimo Goldman Sachs Boys che insomma si sa far valere anche a livello internazionale. Oh, poi... posso interromperla per dire che mi piace che lei dica l'ennesimo Goldman Sachs boy non come un insulto ma come un complimento, perché mi dispiace, non perché siamo ai microfoni di Radio 24, ma perché conosco il governatore da quando sono ragazzino. Tutta questa campagna montata anche da un pezzo di politica italiana, oltre che dalla stampa internazionale che non voleva Mario Draghi per alcuni versi, ovviamente, diffidandone in quanto italiano, sul fatto che sia stato Goldman Sachs, è una colossale sciocchezza. Chi conosce Mario Draghi e sa quello che ha portato come civil servant, come servitore dello Stato al Tesoro, con una equipe di strepitosi giovani economisti all'inizio degli anni 90 e alla fine degli anni 80, che in pochi mesi fecero le privatizzazioni clamorose. Oggi molti le criticano, so che è di moda criticare, ma fu titanico in un anno e mezzo fare privatizzazioni secondo solo quelle della Thatcher. Ci volle competenza, autorevolezza, prestigio, decisione. Quella fu la squadra di Mario Draghi. E poi dopo, l'autore del testo unico sulla finanza e Mario Draghi, negli anni in cui noi eravamo tardi e male all'antitrust, per essere chiari. Poi il fatto che sia andato a un certo punto in Goldman Sachs, che molti dicono nel tempio della grande finanza ladrona, no, lui è andato con un incarico che non era esecutivo, nel board europeo, e spiegava agli amici, anche a me lo spiegò: io sono andato a una sede di Londra apposta a scegliere una cosa nel primo piano dove ci sono i traders, gli operatori, perché volevo capire dal di dentro come funzionavano i mercati, visto che ho fatto quello che fa i testi unici e così via. Ora, con tutti i difetti e i limiti che ha avuto questo sistema di intermediazione finanziaria che ci ha regalato la crisi, quella d'alta leva, eccetera, eccetera, pensare che questa roba fosse, Mario Draghi avesse, per così dire, le impronte della finanza ladrona internazionale dai falsi attivi patrimoniali, mi ha sempre fatto ridere, perché il presidente del Financial Stability Board, identificato in lui e che ha avuto l'autorevolezza riconosciuta al G20 in questi anni di dare quel po', troppo poco, di ricette condivise, devo dire, deve inorgoglire l'Italia. A me personalmente mi inorgoglisce. Scusi che l'ho interrotta, ma perché è raro trovare qualcuno che dica Goldman Sachs boy come se fosse un complimento. Prego, continui. Ecco, no, volevo solo fare due annotazioni. Una riguarda proprio questo discorso che faceva faceva Draghi. Alla base di tutto quello che dice Draghi c'è un difetto grandissimo del nostro paese, che è una seria selezione della classe dirigente, perché altrimenti non ci si spiega come mai ci si ritrova sempre da anni con un gerontocomio per prendere decisioni, e questa mancanza di selezione della classe dirigente è da imputare sia a livello politico alla destra che alla sinistra. Non esiste un sistema, non so, stile anglosassone, che può essere l'Inghilterra, l'America, la Germania, dove il paese cerca le forze nuove, cerca energie nuove per proporle sulla scena primaria del governo della politica, ma non solo del governo della politica, ma anche nei vari campi della scienza, della cultura. E questo spiega un po' anche la fuga di cervelli. Seconda annotazione che volevo fare è squisitamente politica. Io non credo che questo governo riesca a fare la riforma del fisco, lo dico anche perché. È stato il governo con più parlamentari della storia, cioè 100 parlamentari di vantaggio, non è riuscito a partorire un topolino, perché si dice che la montagna partorisce il topolino, questo governo non ha partorito un topolino. Ora la vedo veramente molto dura che si vada a toccare un argomento come il fisco, che non è solo un discorso tecnico ma anche culturale. No, è culturale e poi soprattutto è strutturale. Le riforme fiscali si fanno una volta ogni 30-40 anni, quella precedente all'inizio degli anni 70 ed è rimasto un cantiere aperto per decenni, ma appunto per farle in maniera incisiva hanno bisogno di una visione di fondo, perché quando si tratta di impostare, lo abbiamo sempre detto, il fisco appartiene alla filosofia del diritto e alla filosofia della libertà, prima che essere strumento tecnico di incentivo o disincentivo nell'economia. Bene, ancora una chiamata, Luigi che chiama da Milano. Prego Luigi. Sì, buongiorno Giannino. Senta, io ho una domanda molto semplice. Dica. Premesso che sono un imprenditore, quindi sono abituato a dover reagire alle botte che il mercato spesso e volentieri ci regala, no? Sì. Non crede lei che, visto lo scenario futuro davanti al quale si potrebbe trovare il Premier e tanti altri, cioè sicuramente non si candida, anche perché il futuro della nazione non può basarsi su un uomo di 75 o più anni, non crede... Lei sa che su Berlusconi, su questo però, che con la sua età e la sua durata ha una concezione un po' diversa. No, siccome la prospettiva è comunque di andare a casa, ecco, lei dice non si candida, perfetto. Sì. sì, non si candida, comunque non viene eletto, non lo so, non mi interessa. La prospettiva, io guardo la prospettiva, sì, che è quella sicuramente di non continuare ad essere sul proscenio e via dicendo. Non crede quindi che per molti questa situazione sia reale e che quindi queste siano le condizioni ideali per fare delle riforme che siano riforme epocali, ho capito cosa dice, in modo da un tanto andare a casa per andare a casa, almeno faccio un servizio con la S maiuscola al mio paese, merito, professionalità, tutti quelli che invece stanno appesi a Luigi, la sua è una considerazione di ragionevolezza, che subito dopo le informazioni sulla circolazione stradale giriamo a Vignali per vedere se, stante che insomma dalle urne attuali un po' dura per voi e per Berlusca, mettetevi in questi due anni, riuscite a fare un anno almeno, un anno e mezzo, quant'è, tentate di fare disinteressatamente, cooperando anche con l'opposizione, non solo da soli, quello che nei primi tre anni è stato difficile fare, visto che fino a oggi, tranne alcune cose importanti come la riforma dell'università, la detassazione del salario al 10%, perché ha consentito di far decollare gli accordi interconfederali di tipo nuovo sui contratti e così via, ma ecco, tranne queste cose, per il resto l'agenda delle promesse è rimasta inattuata. Tocca dire che dopo la pubblicità del sughero la politica italiana non è molto diversa a volte, cioè il problema è il galleggiare. No, detto questo, allora, Draghi ieri ha disegnato il famoso programma in 8 punti, ripreso anche dal Sole 24 Ore. Questi 8 punti quali sono? Giustizia civile, istruzione, perché da scuola all'università dipende un punto di PIL, occupazione, stop al dualismo negli accordi sul lavoro, significa che bisogna cambiare l'ipertutela che piace tanto a CGIL e una parte di sinistra, estesa a tutti, perché quei costi sono rigidità che le imprese non si possono permettere e nessun paese, neanche quelle socialdemocrazia ed ex socialdemocrazia europea, ha imboccato. Il dualismo del mercato del lavoro significa unificazione delle tutele per progressione dei rapporti di durata dei rapporti di lavoro e significa meccanismi di flessibilità all'ingresso e all'uscita, anche all'uscita, per essere chiari, e la Banca d'Italia l'ha detto per la prima volta esplicitamente, quindi è sulla linea di CISL e Confindustria. Quarto punto, relazioni industriali, contrattazione aziendale da rafforzare, anche qua flessibilità, deroghe contrattate sempre col sindacato, ma contrattate per consentire a tutti in questo paese dove il piccolo e l'impresa e la piccola è diventata la taglia più prevalente ancora che in passato, di avere intese e relazioni con i sindacati adeguate alle proprie condizioni di prodotti, processi e nicchie di mercato. Quinto punto, mercato del lavoro, impiego femminile, soprattutto quello giovanile, da rilanciare nel sud. Poi sesto, protezione sociale, sostegno a chi si attiva per ritrovare un posto, quindi rispetto a cassa integrazione ordinaria e straordinaria protratta, un meccanismo diverso di tutela che tuteli dalla perdita del reddito e non dalla perdita del posto di lavoro, com'è e dov'è che impedisce la razionalizzazione. Settimo punto, le infrastrutture, tagli alla spesa pubblica reinvestiti in grandi opere, critica ai tagli agli investimenti pubblici fatti da Tremonti, troppo pesanti, questo è la critica, il nocciolo, la critica ai tagli lineari fatti da Draghi. Ultimo punto, servizi pubblici locali, inefficienza provocata dalla poca concorrenza. E qui c'è anche la questione del referendum sull'acqua, mi dispiace dire onorevole Mosca, in cui il PD ha una proposta depositata firmata da Bersani e Franceschini, che è per la remunerazione della tariffa, per le gare eccetera eccetera, e invece poi di fronte alla demagogia di chi ha raccolto 1,5 milioni di firme che racconta che bisogna impedire la privatizzazione dell'acqua, anche il PD si fa trascinare, e questa è un po' anche la cifra, secondo me, un pochino di quello che è avvenuto nel voto. Ma domanda a Vignali, ha sentito l'imprenditore che dice tentate almeno di farci vedere in questo anno e mezzo, due, lei che dice? Ma io sono assolutamente d'accordo, però prima vorrei dire una cosa, secondo me dire che questo governo non ha fatto niente è assolutamente ingeneroso, oltre alle cose che ricordava lei, penso alla grande politica sugli ammortizzatori sociali fatta nella crisi, abbiamo tenuto la crisi, questo non è un fatto da poco, visto l'esperienza di altri paesi. Sono stati dati per la prima volta ai dipendenti delle piccole imprese che non li hanno mai visti, lo sforzo di semplificazione con le difficoltà che ci sono a scendere da Roma fino ad arrivare sul territorio, però anche per la classifica della Banca Mondiale sul Doing Business, l'apertura dell'attività di impresa siamo scesi di due posti, siamo saliti di due posizioni nella graduatoria, quindi. E poi io riconosco, lo riconosco io per primo, io riconosco sempre a Tremonti che in questo essere riusciti ad avere un deficit più basso di Germania, Francia eccetera e non farci entrare nella crisi dell'eurodebito è un grande merito. E questo, sono cose che non vanno dimenticate, perché noi facciamo presto a dimenticarsi delle cose. Poi devo dire abbiamo anche i media che raccontano sempre della cosa che non va e non raccontano invece di quello che si fa, ma questo è un aspetto patologico. Detto questo, io credo che abbia ragione Berlusconi pretendendo che si faccia un intervento fiscale subito. Poi la grande riforma forse ci vorrà del più tempo, però noi sul fisco credo dobbiamo intervenire subito anche per vedere i risultati, perché sono pienamente d'accordo con quello che diceva lei, che ci vogliono delle categorie di fondo ben precise, su questo credo che abbiamo idee diverse rispetto all'opposizione, ma se le facciamo subito possiamo vedere i risultati. Cito un piccolo caso, un esempio. Nel 2000, la finanziaria del 2005 fatta da Tremonti, che conteneva un bel intervento di defiscalizzazione per gli investimenti delle imprese, ha portato poi, quindi sul 2006, ad avere un tesoretto che poi il governo Prodi ha dilapidato. Allora tutti dicono, il tesoretto c'è stato perché è ripartita l'economia. Secondo me, se l'economia è ripartita anche perché il fisco ha allargato le maglie, ha detto chi investe viene premiato, e questo ha portato a una crescita dell'economia. Questo è un dato, io credo, assoluto. Poi sulle cose che diceva Draghi, io sono assolutamente d'accordo, vorrei sapere cosa pensa l'opposizione. Ad esempio sulla concorrenza, non solo nell'università, io aggiungerei anche la scuola, una concorrenza regolata, come diceva lui, che può portare, diceva lui, solo sull'università una crescita dell'1% del PIL. Siamo d'accordo o no? Perché a me non sembra. Sentiamo un secondo, sentiamo che cosa ci dice l'onorevole Mosca esattamente su questo punto. Molti ascoltatori, anche SMS, noi abbiamo un pubblico talvolta che ha anche fatto imprenditori, commercianti, artigiani, ci dice, ma sì, però su quello che dice Draghi, su punti come la concorrenza nei servizi pubblici locali, non solo l'acqua di cui hai parlato tu e così via, un centrosinistra in cui diventa ancora più decisivo che in passato la sinistra di Vendola, la pulsione giustizialista, magari anche l'occhietto strizzato al Movimento 5 Stelle, insomma tutto questo davvero si può applicare con riforme di flessibilità e di concorrenza eccetera, come dicono Draghi e come voi ci ripetete dal mattino alla sera, Confindustria chiede e così via? Domanda però alle Mosca, perché questa è una domanda legittima, non è una critica politica. Cioè, è chiaro che il segno politico sembra spostarsi più verso chi critica mercato, concorrenza, apertura, e torna a dire Stato, deficit, eccetera. In Puglia c'è il massimo delle tasse, lo sappiamo tutti. Ma io voglio dire solo una cosa, che durante questo decennio, che tutti i dati ci dicono essere stato perduto quanto alla nostra competitività, l'unico barlume di liberalizzazioni, l'unico barlume di apertura verso i mercati è stato quel breve periodo di governo del centrosinistra. Quindi se i dati non sono, se i fatti non possono essere interpretabili, mi pare che sia chiara la situazione, perché a dispetto del fatto che questo governo si mostri e si sia sempre raccontato come il governo pro mercato, pro liberalizzazioni, tutti i fatti ci dicono che invece sono stati fatti dei passi indietro rispetto a tutta una serie di questioni. Quindi questo mi sembra che non possa essere da nessuno messo in discussione. Inoltre l'onorevole Vignali diceva che che il governo ha fatto una serie di cose che non sono state raccontate nel modo giusto. Se anche le ha fatte, sono state fatte le cose sbagliate, perché se i dati che ci ha raccontato ieri il governatore Draghi, che poi confermano la relazione della scorsa settimana di Enrico Giovannini dell'Istat, mi sembra che non ci sia niente di cui gioire, perché tutto quello che è stato fatto porta il nostro paese ad essere molto lontano rispetto alle altre economie europee che hanno vissuto la nostra stessa crisi e che comunque sono riusciti a superarla in modo molto più rapido rispetto a quello che il nostro paese è riuscito a fare. Non c'è stata di fatto nessuna scelta che ha portato verso questa apertura, questa eliminazione di tutte le protezioni, verso smantellamento di quel blocco sociale che nel nostro paese è così forte da impedire alle corporazioni e a ciò che impedisce il libero mercato. Io devo fermare la Mosca, perché time out, e ringraziare Vignali, Mosca e Garavaglia. Naturalmente Mosca è abilissima, perché con diplomazia ha parlato di questi 10 anni e il suo giudizio è quello consegnato nella relazione che ha citato, però rispetto al punto di fondo di una sinistra in cui torna la parte più a sinistra a essere molto importante nei successi, giustamente diplomaticamente ha preferito eludere. Noi continueremo a porre questi interrogativi. Sta di fatto che l'Italia cresce davvero troppo poco, e le difficoltà di questo centrodestra, commento e chiosa finale, mi sembrano troppo elevate per pensare che davvero in questo anno succeda qualche cosa di troppo positivo, a meno che nel centrodestra qualcuno tiri fuori, come si suol dire, gli attributi e dica: Berlusconi out, io mi candido per un'area politica su queste cose, a chiedere ora, subito o altrimenti al voto, candidandomi io, un futuro per il centrodestra moderato. Chi ha il fegato per capire che è venuto il momento di farlo, lo faccia, altrimenti verrà da fuori, dalla società civile, dal basso, dall'impresa, dagli artigiani, dai commercianti, perché è stato più leggero e tasse meno rapinose sono non un diritto del cittadino, sono un dovere per chi da 17 anni ha preso voti e consensi, per lasciare le cose come prima? No, molto peggio di prima. Saluti e baci da Oscar Giannino, grazie a Vignali, Mosca e Garavaglia, linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.